sta portando come servizio pubblico, diciamo, ne parlavamo prima con Giancarlo Riccio, così le proposte, gli incontri con l'autore, con l'autrice, in giro per la città. Questi per motivi logistici, perché appunto la biblioteca è in attesa della realizzazione di una sede un po' più grande. Questa dislocazione diversa è anche per noi un vantaggio per far conoscere meglio il nostro servizio alla cittadinanza. Abbiamo veramente con grande soddisfazione e riconoscenza la possibilità di avere degli ospiti illustri, come è il caso di questa sera. Ringrazio tantissimo il professor Franco Cardini, storico, docente universitario, giornalista. Ha chiaramente fatto parte anche del consiglio di amministrazione della RAI, un personaggio molto noto che con grande attenzione, con grande profondità coglie ogni momento del presente e lo trasforma in un libro interessantissimo. Abbiamo una bibliografia estesa anche in biblioteca. La mia collaboratrice Monica Marcona ha preparato in fondo alla sala un saggio di quelli che possono essere i libri legati alla tematica di questa sera, però il focus centrale sicuramente è il libro, appunto, Un uomo di nome Francesco. Non anticipo niente, abbiamo con noi Giancarlo Riccio, giornalista del Corriere della Sera, per la cronaca appunto legata all'autore, che ringrazio perché è lui il promotore di molte iniziative, un mediatore, una mia ispirazione costante delle iniziative della biblioteca. Lo ringrazio pubblicamente. Grazie. Ecco. E vi auguro una buona serata, la possibilità di avere dei nuovi orizzonti, di conoscere nuove prospettive di lettura di quello che è il nostro presente molto molto particolare e anche complicato. Grazie professore ancora. Grazie. Allora, buonasera, willkommen an alle, benvenuti a tutti, grazie di essere qui. Forse non funziona, ma se non funziona il mio, guardate al lato buono della cosa, e cioè che... Pronto? Sì, funziona. Sì, allora davvero benvenuti a tutti. Ci sono tra voi persone che io ringrazio in modo speciale perché li conosco, non perché siano persone importanti, ma devo dare un ringraziamento a alcuni tra i presenti che ho il piacere di conoscere da anni e che sono molto lieto di ritrovare. Adesso, siccome il professore è il modestissimo moderatore, che ringrazio molto Teresa Trevisan per le parole molto generose e assolutamente sovradimensionate che ha detto su di me, o naturalmente il protagonista è il professor Cardini. Adesso, in attesa di altre cose, Cardini e Riccio stanno per fondare una radio di cui vi faccio sentire una cosa, se funziona il collegamento, vediamo. I collegamenti di solito non funzionano. Date pazienza. Speriamo bene, perché così a occhio e croce sembra lo Hot Vessel Lead. No. Può sempre succedere. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Mi sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Ecco, credo che abbiate riconosciuto questa voce, che grazie ai potenti mezzi del broadcasting Cardini Riccio, è la voce di Papa Bergoglio, al quale Franco Cardini ha dedicato un libro molto importante e molto significativo e molto corposo, che è una lezione di storia anche, cosa che mi ha colpito non in modo speciale perché ho il privilegio di conoscere il professore da molti anni, naturalmente il focus è il Papa in carica, ma chi lo potrà scorrere, chi vorrà scorrerlo, chi l'ha già scorso, vi ha trovato dei momenti molto speciali e dei rapporti tra la Chiesa Cattolica e le altre confessioni, tra la Chiesa e il mondo laico. Ci sono riferimenti ai concili, ci sono riferimenti ai rapporti tra Papa Bergoglio e il suo predecessore, un'anomalia su cui molti vaticanisti, ovvero i giornalisti che si occupano specialmente di Vaticano e che sono cresciuti a dismisura dopo l'elezione di Bergoglio. Ho dei colleghi che prima facevano delle cose piatte e un po' noiose, che hanno scoperto all'improvviso di avere la vocazione dell'esperto di Vaticano. Beati loro, credo che stiano facendo complessivamente un buon lavoro. Allora, mentre il professore sfoglia la propria opera, io ricordo soltanto, salvo permettermi forse un paio di domande in corso d'opera, che di Bergoglio noi sappiamo abbastanza, anche perché è un comunicatore molto sofisticato, nonostante la sua aria bonacciona o falsa bonacciona. Su di lui sono stati scritti già diversi altri libri, alcuni dei quali Cardini cita con la sua solita correttezza anche formale, non solo sostanziale, in questo libro edito da Mondadori l'anno scorso. Parliamo di un Papa che è il primo gesuita diventato Papa. L'hanno pescato i cardinali quasi alla fine del mondo, che è un capolavoro di comunicazione. Cioè, se non so se sarebbe venuto in mente a ognuno di noi, a me di sicuro no. È un Papa che di recente ha incontrato, come aveva fatto anche il suo predecessore, il rabbino capo di Roma. È un Papa che, e questa è la prima domanda che rivolgo a Franco Cardini, che pochi giorni fa ha incontrato a Cuba un signore che appartiene ad una esperienza russa speciale. E che è stato un incontro molto importante, che è stato, come sapete bene, il prologo poi del viaggio messicano. Che cosa ha combinato? Alcuni dei presenti sanno appunto che il moderatore e il professore si conoscono da anni, quindi permettetemi e permetteteci di darci del tu reciprocamente. Che cosa ha combinato Papa Bergoglio quando ha incontrato, peraltro a Cuba, il patriarca? Che cosa ha voluto dire, a cosa ha voluto fare? Buonasera. Buonasera. Proviamo a fare un po' di decostruzione dell'incontro, partendo dall'immediato, invece partire dal significato centrale, cerchiamo di avvicinarsi, quando ci stiamo avvicinando si parte dalle periferie, il resto. Le periferie piacciono a Papa Francesco. Beh, anzitutto c'è un elemento americano che agli europei può sfuggire. Bergoglio è un americano sui generis, perché è nato nel continente americano, ma è nato nel paese forse più europeo, europeizzato ed europeista di tutta l'America Latina, che è l'Argentina, insieme col Cile magari. Per diversi molto di più, perché c'è una presenza non solo spagnola, ma anche per esempio italiana, rilevantissima, e il legame con l'Europa è molto forte. Poi, perché il Papa stava andando in Messico, è casuale che lui stesse andando in Messico proprio mentre Kirill stava andando a Cuba e poche settimane dopo che il Papa stesso era andato una volta a Cuba, questo impegnarsi sull'America Latina e cosa significa. Sappiamo che l'America Latina è un grande continente con un straordinario passato cattolico, sappiamo che in questo momento questo passato cattolico è messo in crisi, c'è un'emorragia nella Chiesa Cattolica determinata da tanti fattori, mi riferisco per esempio delle chiese e delle sette protestanti o di chiese o di sette di altro tipo, altre religioni, nuove religioni, religioni qualcuno anche di tipo strano, qualcuno anche un po' allarmante. E lì proprio in un paese che fra l'altro in questo momento è un paese sotto i riflettori del mondo, che è Cuba, paese che non ha nessuna intenzione, lo dico con cognizione di causa, ci ho passato più di un mese proprio qualche settimana fa, parlando con colleghi universitari, parlando con uomini politici, ho fugacemente visto perfino Fidel, ma non è un paese che abbia intenzione di cambiare totalmente, è un paese che vede con apprensione l'affacciarsi sulle sue coste di un mondo che non conosce, che fino a ieri lo ha respinto. È un paese che ha grossi problemi, è un paese povero, un paese che non ha risorse, un po' di zucchero, quindi di rum, un po' di tabacco, quindi di sigari, un po' di rame. La protettrice di Cuba è Nuestra Signora del Cobre, la nostra signora del rame, cioè dei minatori del rame. Ed è un paese dove appena arrivati a L'Avana, per esempio, che è una città enorme, bellissima, ma in certe parti sembra distrutta, sembra bombardata, in realtà non l'ha bombardata nessuno, si è destrutturata col tempo perché questa bellissima città coloniale era una città che era mantenuta da un flusso di denaro sproporzionato, ricchissimi personaggi che vivevano a Cuba, ma che in gran parte non erano cubani, che stavano a Cuba perché Cuba aveva una legislatura che permetteva a grossi personaggi di vivere lì praticamente senza pagare tasse, era una grande bisca dei Caraibi e nello stesso tempo era tenuta da regimi in generale abbastanza avidi, corrotti, violenti. La rivoluzione socialista ha significato un netto impoverimento. I ricchi se ne sono andati portando con sé le loro ricchezze, almeno quello che hanno potuto esportare, certamente le ricchezze bancarie. Il paese è rimasto depauperato e ha seguito sulla sua strada con una encomiabile coerenza. Cuba oggi ha un articolo di esportazione che non lo conosciamo, che non valutiamo, ma che è prezioso. Cuba esporta persone qualificate, Cuba esporta insegnanti, tutta l'America Latina, esporta medici, ha un livello di sviluppo medico, di università, di ospedali, di livello assolutamente europeo. L'istruzione è veramente libera e gratuita per tutti, fino a livelli universitari. L'assistenza medica è libera, gratuita, ottima. Le comunicazioni sono per quello che possono essere, Cuba non ha uno sviluppo ferroviario, ma uno sviluppo su ruote, buone a loro volta e praticamente gratis anche quelli. Cioè praticamente il sistema riesce a garantire dei servizi essenziali, anche se tiene evidentemente molto bassi i salari e i consumi, altrimenti non potrebbe essere. Con una legislazione che si permette di essere esemplare perché ha rinunziato a certe cose, Cuba avrebbe potuto avere uno sviluppo industriale. I sovietici gliel'avevano offerto, non lo ha rifiutato, ha voluto rimanere un'isola contadina. Il risultato è che i fiumi cubani, Cuba sembra un'isola lunga e stretta e quindi non aver fiumi, invece ce li ha, è anche piuttosto belli. I fiumi cubani sono esemplari perché la rivelazione li protegge in maniera rigorosissima. Sui fiumi cubani si naviga soltanto a remi o a vela, non c'è un filo di inquinamento, e i fiumi cubani sono dei piccoli rio degli Amazzoni intatti, e tutto questo si teme di vederlo saltare per una situazione che potrebbe anche diventare migliore per molti cittadini cubani, ma che probabilmente potrebbe anche diventare peggiore per la grande massa dei cittadini cubani. Quindi una situazione di transizione. È una situazione di un paese che per molto tempo ha avuto, il cui governo ha avuto un atteggiamento di repressione, anche di persecuzione in certi momenti per la Chiesa Cattolica. Poi ha cambiato atteggiamento da alcuni anni, ormai da più di un ventennio. Fino al 1990 i cattolici non potevano essere iscritti al Partito Comunista, poi tutto è cambiato gradualmente, soprattutto dopo la visita di Papa Giovanni Paolo II, poi si parlò di un idillio tra Giovanni Paolo II e Fidel Castro, un po' simile a quello che è avvenuto tra Francesco e Raúl Castro. Perché racconto queste cose? Perché in pratica Cuba è in questo momento è un laboratorio di quello che l'America Latina significa e di quello che l'America Latina potrebbe significare in futuro. L'America Latina, per dirla con Papa Francesco, è una periferia, ed è una periferia estremamente significativa in cui potrebbe succedere tutto e il contrario di tutto. Ed è una periferia che la Chiesa Cattolica da un po' di tempo a questa parte ha preso di particolare mira. Una delle prime visite di Francesco appena diventato Papa, come ricorderete, nel 2013 fu questa visita che fu una specie di apoteosi in Brasile. Bisogna essere americo-latini per capire quanto faccia notizia il fatto che un argentino vada in Brasile e sia bene accolto. E esattamente quello che disse il sindaco di Rio de Janeiro al Papa appena il Papa scese dall'elicottero al grande stadio di Rio dove doveva dir messa, e il sindaco di Rio gli disse: beh, ci voleva un Papa per obbligare dei brasiliani ad applaudire un argentino. E il Papa rispose: beh, non è vero, c'è stato Fangio, il grande campione dell'automobile degli anni 50, ci sono stati alcuni calciatori, eccetera, eccetera. Ma certamente è un fatto che fa epoca in un certo senso. Ma proprio in America si dovevano andare a incontrare due persone che hanno parlato di un'altra cosa, che hanno parlato delle persecuzioni cristiane, per esempio, e che hanno parlato dell'unità della Chiesa. Avrebbero potuto, secondo noi, farlo più opportunamente, per esempio, in un paese del Vicino Oriente. Non dico Gerusalemme, che è molto complicato, ma francamente non saprei in quale paese del Vicino Oriente una cosa del genere avrebbe potuto accadere, insomma. Perché in questo momento il Vicino Oriente attraversa una fase molto delicata, molto complicata. Però andare a farlo proprio in America, l'America meridionale si è presentata come un paese di frontiera religiosa, proprio alcuni decenni or sono, quando scoppiò il problema della cosiddetta teologia della liberazione. Nei confronti della teologia della liberazione la Santa Sede prese un atteggiamento durissimo. Papa Giovanni Paolo II, appena eletto nel 1978, volò l'anno successivo immediatamente in America Latina e fece un giro che coincise largamente con quasi la messa al bando, con metodi evidentemente non violenti, guarda sé, la messa al bando della teologia della liberazione. Il secondo viaggio di Papa Giovanni II in America, in pieni anni 90, fu una palinodia, fu una confessione di mutamento di tendenza. Nel frattempo ci si era resi conto di alcune cose, ci si era resi conto di come per certi versi la teologia della liberazione, in maniera teologicamente molto pericolosa, avesse tuttavia messo il dito su una piaga. Ed è una piaga che noi occidentali, per ovvi motivi, non abbiamo valutato troppo presto come una delle peggiori piaghe del mondo. Per ovvi motivi, perché non ce ne siamo resi conto. E non ce ne siamo resi conto perché per il momento non ci riguarda, dovrei dire non ci riguarda ancora. Spero di no, spero di sbagliarmi dicendo non ci riguarda ancora, ma sono quasi convinto di non sbagliarmi, e non ci riguarda, forse non ci riguarderà mai del tutto. Ma c'è una cosa che bisogna tenere presente per capire un po' il carattere di questo pontificato. Noi siamo 7 miliardi di persone al mondo. I dati ultimi, che risalgono al 2010, quindi sono già vecchi, può darsi che i dati attuali reali siano ancora peggiori, perché il trend, la direzione era quella di un peggioramento. Comunque i dati rilevati dalle Nazioni Unite e dalla FAO nel 2010, che sono dati che si rinnovano di 5 anni in 5 anni, quindi gli ultimi sono del 2010, quelli del 2015 non sono ancora pronti, parlano di una ricchezza del mondo che è detenuta, posseduta e gestita da un decimo degli abitanti del mondo, il che vuol dire 7 miliardi, 700 milioni di persone. 700 milioni di persone si ripartiscono, attenzione, si ripartiscono, non ho detto che si ripartiscono in parti uguali, si ripartiscono al loro interno il 90% delle ricchezze del mondo, che evidentemente sono ricchezze in gran parte che non provengono, alludo soprattutto alle materie prime, anche alla, che alla forza lavoro, che è una forma di ricchezza, eccetera, non provengono dagli stessi luoghi nei quali abita questo 10% privilegiato del mondo. Il 10% privilegiato del mondo abita fra l'Europa, l'Europa occidentale, l'America settentrionale, gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, il Giappone, qualche cosa sparso tra Sudafrica e qualche paese arabo del Golfo. Se mettete insieme gli abitanti di questo, di queste aree privilegiate, vi accorgete, noi europei siamo mezzo miliardo, gli americani sono altri 800 milioni, poi c'è altri 300 milioni, scusate, poi c'è un 200 milioni sparsi fra Canada, Australia e altre zone, qualche zona della, dell'estremissimo est, a parte Giappone, Hong Kong, Singapore e tutto il resto. Forse si arriva a un miliardo in tutto, quindi qualche cosa di più del 10% di cui parla un po' pessimisticamente la FAO. Cosa vuol dire praticamente tutto questo? Vuol dire che quelli che gestiscono la ricchezza del mondo sono pochissimi, e sono ancora meno, perché in realtà questa ricchezza non è concentrata in mani che se la distribuiscono equamente, al contrario, è da tempo che si sta verificando un processo di progressiva concentrazione della ricchezza, che vuol dire la ricchezza è sempre più concentrata in un numero sempre minore di mani, grandi famiglie, grandi gruppi economici o finanziari o bancari, grandi lobbies, come si usa dire. I 9 decimi del mondo, probabilmente, io sono più ottimista, io tenderei a dire che in fondo il rapporto non è 90 a 10 ma è 85 a 15, ecco. Diciamo che un 15% del mondo si ripartisce la ricchezza, e in questo 15% privilegiato ci siamo tutti noi, proprio come fisicamente tutti quelli che sono in questa stanza, nessuno escluso, e a meno ci sia qualcuno di voi che viene dall'Africa o qualcosa di questo genere, appartiene al mondo dei privilegiati. Non vi sembrerà, non ne avrete motivo, però è così. Certamente siete dei privilegiati sul piano della statistica, e come sapete la statistica è quell'arte, come diceva Trilussa, se io mangio un pollo e tu non mangi nulla, abbiamo mangiato mezzo pollo a testa. Però il problema è che questa concentrazione della ricchezza, che fa sì che nel mondo muoiano ogni giorno, per esempio, i dati della Croce Rossa sono allarmanti, ogni giorno nel solo continente africano muoiono circa 1 miliardo di bambini, semplicemente di fame, di sete e di malattia. Bambini che potrebbero essere curati con medicinali che costano veramente pochi euro, vite che potrebbero essere salvate con esborso di pochissimi euro, medicinali che costano molto semplicemente perché le lobby farmaceutiche che tengono alti i prezzi dei brevetti. Tanto è vero che alcuni paesi africani, andando contro la legge internazionale, diventando dei fuori legge internazionali e affrontando tutti i risultati dell'essere fuori legge internazionale, tutte le forme di embargo e di cordone sanitario intorno a loro, hanno denunziato questa forma di brigantaggio legalizzato internazionale e hanno dichiarato che nei loro stabilimenti farmaceutici le medicine in questione se le faranno loro, tanto si tratta di, in generale, di formule chimiche facili e note, e non pagheranno più questi balzelli alle organizzazioni internazionali. Siamo quindi a un livello di, non siamo a un livello di ingiustizia, questo non vorrebbe dire nulla, siamo a un livello di una cosa che Papa Francesco, che non imparerà mai l'italiano, che non lo studia, il Wojtyła, cioè Papa Giovanni Paolo II, che era da buono slavo molto portato per le lingue e che parlava una lingua molto lontana dall'italiano, e si studiò indefessamente l'italiano, non lo parlò mai con un buon accento, però in cambio dopo pochi mesi aveva imparato a usare correttamente le flessioni verbali. Nessuno spiegherà mai adeguatamente a Papa Bergoglio che lo spagnolo e l'italiano sono diversi nell'uso degli ausiliari secondo che il verbo sia transitivo o intransitivo. Bergoglio è convinto che tutti gli ausiliari dei verbi attivi si coniughino col verbo avere, mentre invece, come sapete, in italiano, come in francese, alcuni, se sono intransitivi, si coniugano al verbo essere, e questo non glielo spiegherà mai nessuno, perché lui non si degnerà mai di studiare un po' di grammatica, un po' di sintassi. Lui sa il piemontese arcaico della sua famiglia, parla una lingua abbastanza simile all'italiano, lo spagnolo, e quindi ci dobbiamo rassegnare. Lui continuerà a dire a ogni Angelus: ieri noi abbiamo stato e non c'è niente a fare, insomma. Forse con l'orecchio lo imparerà, ma ci vorrà molto tempo. Però in cambio lui viene dalla periferia, viene da questa periferia particolare, che non è la peggiore al mondo, che è quella argentina, e ha capito una cosa fondamentale, che è la chiave per capire cosa ci sta succedendo in questo tempo, di questi tempi, anche per capire il terrorismo e via discorrendo. Cioè, lui parla di inequità, e siccome lui è un ispanofono che parla male l'italiano, non ha guardato il vocabolario e non si è accorto che la parola inequità non esiste. Però è una parola bellissima, perché è un miscuglio ispanizzato di ineguaglianza e iniquità. Ed è proprio questo che caratterizza il mondo d'oggi. l'inuguaglianza e la iniquità. Però questo non basterebbe ancora. Il mondo è sempre stato ingiusto, come sapete. Il mondo coloniale dell'8 e del 900 non era più giusto di quello di oggi. Forse certe cose sono andate migliorando o peggiorando in progressione geometrica, d'accordo? La marcia è progresso in qualche modo. Però non c'era molto da scialare nemmeno allora. Però c'era una differenza tra i popoli ricchi e i popoli poveri di allora e tra i popoli ricchi e i popoli poveri di oggi. La differenza è che questa inuguaglianza è andata crescendo dal 500, da quando il mondo è diventato una realtà unita, da quando è cominciata la globalizzazione, è cominciata per merito degli europei che hanno unificato tutto il mondo con la loro tecnologia, con la loro con il loro genio, con la loro capacità di viaggiare, di dominare, di organizzare le economie. E l'economia mondializzata, l'economia mondo, come la chiamano i sociologi, si fonda sullo scambio asimmetrico. Lo scambio asimmetrico è quella cosa per cui una parte compra o vende dei beni al prezzo che dice lei, e l'altra parte compra o vende dei beni al prezzo che dicono i concorrenti o gli interlocutori. Asimmetrico perché evidentemente noi tendiamo a vendere cari i nostri prodotti, che sono spesso prodotti immateriali, ma di grande valore: i sistemi politici, i diritti umani, la democrazia. Questi sono i doni dell'Occidente, la tecnologia, i doni che l'Occidente ha fatto al resto del mondo, la scienza. Però questi doni costano e in cambio gli occidentali chiedono cose di cui il resto del mondo non sa bene cosa farsi in fondo. Materie prime e forza lavoro, sempre al prezzo degli occidentali. Tutto questo ha causato evidentemente un grave squilibrio sul piano socio-economico, uno squilibrio che oggi è diventato enorme e che le nostre office multinazionali contribuiscono ad aumentare. Tutto questo sarebbe un male? Beh, insomma, se vi mettete da un punto di vista, che so io, di giustizia distributiva, alla luce dei vostri valori, se i vostri valori sono valori cristiani o valori umanitari, un tempo sarebbero stati valori più o meno vagamente socialisti, beh sì, certo, questo è un male, è un'inuguaglianza che arriva a livelli tali, per esemplificare i quali, diciamo che poche centinaia di persone al mondo si possono permettere di avere davanti alla loro casa una piscina olimpionica nella quale si buttano 5 minuti al giorno al mattino inquinando litri e litri di acqua semplicemente per farsi una bella nuotata all'alba, e ci sono interi villaggi africani dove la gente muore di sete e deve pagarsi l'acqua. È un male tutto questo? Nell'Ottocento evoluzionistico avrebbero detto ma questo è il prezzo della modernità, sono le regole del gioco, e non ci si sarebbe scandalizzati più di tanto, anche perché nell'Ottocento evoluzionistico oltretutto si era anche razzisti e si era convinti che il mondo era diviso in razze e che c'erano razze di signori e razze di gente destinata soltanto a servire. Poi è successo una tragedia, abbiamo cercato di organizzare una società di alto profilo, una società complessa sulle basi di un razzismo metodologicamente organizzato. Questa società ha fallito, si è portata dietro tutta una serie di cose di cui ancora oggi parliamo con disagio, e quindi ci siamo vaccinati dal razzismo e siamo quindi caduti nella contraddizione, perché per un verso non riteniamo giusto questo stato di abissale differenza fra noi, tra virgolette, privilegiati e quegli altri che privilegiati non sono. Per un altro però lo riteniamo impossibile a rimediarsi, almeno nei tempi brevi. Può darsi che lavorandoci le cose cambino, ma per il momento non sembra, perché anzi, al contrario, lo dicevo poc'anzi, il trend si sta dilatando, i ricchi stanno diventando sempre più ricchi e i poveri stanno diventando sempre più poveri. Qual è il risultato di tutto questo? Non sarebbe ancora niente di speciale. Noi ricchi abbiamo tutti i mezzi per poter tenere a bada i poveri, però insieme alle merci nostre che gli abbiamo venduto ai prezzi che dicevamo noi, cioè a carissimo prezzo, ce n'è una che forse abbiamo fatto male a vendere: informazione. Il risultato è che adesso loro lo sanno. Il risultato è che adesso non c'è l'urido villaggio dell'Africa, dico l'urido sul piano delle condizioni igieniche, non sul piano della dignità umana, non c'è più l'urido villaggio dell'Africa che non sappia, mentre lui non ha acqua, perché vede Beautiful alla televisione, che da qualche parte a Los Angeles ci sono i ricchi, e non solo a Los Angeles, con la piscina olimpionica. E allora tutto questo sta scatenando una sequenza di eventi concatenati fra loro che potrebbero portarci veramente molto lontano sulla via della distruzione. Il terrorismo, per feroce e diabolico che sia, non è una causa, è un effetto. Non ci sarebbero terroristi se, sbagliando e interpretando male la storia e rinunziando alla morale e tutto quello che volete, non ci fossero persone che agiscono sulla base di della consapevolezza di una profonda ingiustizia alla quale bisogna in qualche modo reagire. Oggi qualche decina di migliaia, state tranquilli, non sono più, ve lo dico con cognizione di causa, non sono più di qualche decina di migliaia al mondo, su una realtà, quella islamica, di 1.600.000.000 di persone. Qualche decina di migliaia di musulmani stanno pensando che all'ingiustizia del mondo, che chiede vendetta al cospetto di Allah, si possa reagire, si debba reagire con la violenza, una violenza che riporterà a una giustizia che sarà accompagnata dalla conversione di tutto il genere umano all'Islam. È un'idea, è un'ideologia demenziale che fa breccia tra gli emarginati del mondo musulmano, che viene esportata anche perché qualche paese del mondo in questo momento serve a qualche potenza. Per esempio, vi sono potenze del mondo che hanno interesse a scardinare la situazione vicino orientale. Per esempio, per dirla fuori dei denti, Arabia Saudita, Qatar e Turchia hanno interesse a modificare i confini del vicino orientale, del vicino oriente, in modo che tra Siria e Iraq nasca una nuova realtà politica e statuale araba e sunnita, che avvicini il mondo arabo sunnita all'Iran per motivi geopolitici e militari. Tutto questo ha causato negli ultimi anni la nascita di una specie di Stato artificiale che viene sostenuto artificialmente. L'Arabia Saudita è un paese di 12 milioni di persone, se non sbaglio, che ha un piccolo esercito molto buono, molto efficiente, addestrato negli Stati Uniti d'America, ha un ottimo esercito, però non ha bisogno di troppe armi, ha un esercito di circa 30.000 persone. L'Arabia Saudita oggi è il maggior acquirente di armi al mondo. La domanda è: dove finiscono queste armi? Vengono stivate, vengono collezionate o vengono mandate in giro, e perché? Questo è il risultato di un malessere generalizzato che ormai pone le sue radici nella consapevolezza dell'ingiustizia. E da questo che nasce l'idea di questo Papa, che ha preso il nome di Francesco. Prendere il nome Francesco è una scelta assolutamente assurda. Tanto per un Papa gesuita, ci sono mai stati buoni rapporti fra i gesuiti e i francescani. Poi perché Francesco viveva all'inizio della modernità occidentale, lui si poteva anche ribellare personalmente contro la società del denaro, che in quel momento stava nascendo, ma viveva in una società cristiana dove c'erano tanti modi di vivere l'esperienza cristiana. Ha chiesto di fare quell'esperienza lì, la nudità, la sequela a Cristi, e i papi gliel'hanno permesso. C'erano infiniti modi di fare altre esperienze e di essere buoni cristiani ugualmente. Oggi il cristianesimo sta sparendo. La Chiesa sarà anche una grande potenza mondiale, il Papa appare in televisione, sulle televisioni di tutto il mondo, però i cristiani si stanno progressivamente assottigliando, non solo perché in qualche caso li ammazzano, quella è per fortuna una minoranza, ma perché questo 1.200.000.000 di cattolici al mondo, per esempio, è 1.200.000.000 di cattolici fittizi. O come dicono i sociologi, cattolici appunto sociologici, che si dichiarano personalmente cattolici, ma non portano nel loro essere cattolico nessuna conseguenza nella loro vita privata. Nella loro vita privata sono tutt'altro. Questo Papa quindi ha un'idea che è abbastanza demenziale, che è quella di risvegliare un mondo così, un mondo dove chi comanda a tutti i livelli, economico, politico, eccetera, è segnato da una profonda indifferenza per chi invece soffre, di risvegliare questo mondo, di combattere la cultura dell'indifferenza. Questo Papa ci dice una cosa semplice e tremendamente disperata. A tempi di Francesco si poteva essere cristiani in tanti modi, Francesco scelse il più radicale. Al tempo di oggi, dopo 500 anni di svuotamento dall'interno del significato dell'essere cristiani, se si vuole continuare a essere cristiani, tornare ad esserlo, bisogna esserlo soltanto nel modo più radicale, cioè ponendosi fondamentalmente il problema della carità e della misericordia. E questo è il modo di Francesco, lo risolse spogliandosi da ogni ricchezza, e che voleva dire rifiutando qualunque forma di ricchezza. Anche la potenza è una forma di ricchezza, anche la sapienza è una forma di ricchezza. Oggi il discorso è evidentemente diverso, non è che ci si deve spogliare dalle ricchezze. Ogni tanto vedo qualche blog che accusa il Papa di essere comunista, perché il Papa vorrebbe che ci fosse una generale ridistribuzione dei beni su tutta la terra. Certamente, però il Papa non ha mai detto che questa ridistribuzione dei beni debba avvenire in seguito a una rivoluzione, in seguito all'instaurazione di una società senza classi, eccetera. La ridistribuzione dei beni deve avvenire gradualmente sulla base di una riacquisizione della coscienza da parte di chi ha di più nei confronti di chi ha di meno, e non sulla base di una costrizione che sale dal basso, per cui i più ricchi saranno prima o poi obbligati con la forza a sputare il denaro che hanno, i beni che hanno, per favorire i più poveri. Non è questa la rivoluzione che vuole il Papa. Se io lo dovessi dire, e mi avvio a terminare perché ho già torturato abbastanza, se io lo dovessi dire chi è il Papa Francesco in termini che mi sono congeniali, perché io sono un grande ammiratore di questo grande filosofo del diritto e della società che era Carl Schmitt, io direi che questo Papa è un catecon, proprio nel senso che San Paolo da questo termine di catecon, colui che cerca di arrestare, catecon vuol dire freno, che cerca di arrestare il destrutturarsi del mondo, e che ha capito che ci sono tanti mezzi di arrestare il destrutturarsi del mondo: prendere a colpi di droni dei poveracci e ammazzarli è un modo, dal punto di vista di chi lo fa, per allontanare il pericolo di un mutamento sociale. Non è probabilmente il migliore, anzi, probabilmente è uno dei peggiori, perché genera odio, genera rancore, genera altra violenza, come sempre succede con la violenza. Il modo per allontanare quella che in termini cristiani si potrebbe definire la fine dei tempi, ecco perché è stato detto molto spesso, non sempre da gente che capiva quello che diceva, che questo è un papa apocalittico. Il modo per allontanare questo pericolo, questa distruzione del mondo da parte del mondo stesso, è il cominciare col porsi il problema delle nostre responsabilità rispetto all'ingiustizia sparsa nel mondo. C'è un parallelismo molto preciso, e nella enciclica Laudato Si è detto, si può dire in ogni pagina, in ogni rigo, in ogni parola, in ogni lettera, c'è un parallelismo preciso fra le sofferenze della stragrande maggioranza dell'umanità, che servono solo a far stare troppo bene una minoranza infima dell'umanità stessa, e le sofferenze del pianeta, le sofferenze del mondo. Sono collegate, perché gran parte della distruzione del mondo serve a aumentare il volume di ricchezze che poi vanno a sommarsi ad altre ricchezze che non vengono socialmente reimpiegate, ma che vengono congelate in un numero sempre minore di persone. Una volta sbloccata la situazione di ingiustizia, di inequità, come dice il Papa, a livello sociale, si sblocca automaticamente anche a quella a livello cosmico o naturale, perché il riscaldamento del mondo, la deforestazione dell'Africa, la deforestazione del Brasile, eccetera, sono tutte in funzione di una demenziale corsa all'accumulo di ricchezza. E il Papa è stato le denunzia. Ci rimanda ai documenti vescovili, in cui diocesi per diocesi, i vescovi dell'Africa, i vescovi dell'America Latina, facendo nomi e cognomi delle lobbies multinazionali che lavorano in stretto contatto con i governi corrotti di quei paesi, fanno per distruggere l'equilibrio mondiale. E la ragione della distruzione dell'equilibrio mondiale è soltanto l'arricchimento che passa sopra alle necessità, anche a quelle più elementari, di chi conta meno, di chi non ha forza, di chi non ha voce. Ecco perché il problema fondamentale non è convertire i governi, non è convertire i grandi capitani di industria o d'azienda, che probabilmente sono rifrattari alla conversione perché hanno altro a cui pensare, è convertire la gente a scrollarsi di dosso la cultura dell'indifferenza, è parlare di queste cose, è acquisire la conoscenza su queste cose, è parlarne nelle scuole, è parlarne sui giornali, è capire qual è la struttura reale del mondo. Si comincia a farlo, ma siamo ancora lontanissimi. Ecco in che senso questo è un Papa apocalittico, non perché dopo di lui ci sarà l'Apocalisse o perché lui è l'ultimo nella lista delle profezie di San Malachia, questo che poi è un altro discorso e ci porterebbe lontano, ma non è il caso di farlo a quest'ora della sera, ma perché lui si è posto proprio il problema di allontanare i risultati ultimi di questa straordinaria somma di ingiustizia alla luce della quale si sta governando, o se preferite, sgovernando il mondo intero. Ovviamente questo è un Papa che lavora per gradi, è un Papa assolutamente gradualista. Intanto non può fare altro, come diceva il maresciallo Stalin, il Papa non ha divisioni corazzate, è vero. Papa può fare soltanto quello che fa, presentare questi problemi, parlarne di continuo, e fare in modo che ci sia sempre un numero maggiore di persone che prenda coscienza dello stato del mondo attuale e che quindi, per quello che può fare, faccia quello che può fare. In termini di accoglienza ai migranti, in termini di aiuto ai anche ai vicini che hanno più bisogno, no? Non è un Papa che ci chiede soluzioni eroiche, non è un Papa che si atteggia al riformatore globale, è uno che ci chiede un impegno, che però è un impegno quotidiano e mirato in una direzione precisa, smettere di pensare solo ai fatti propri e cominciare a cercare di capire che se qualcosa nel mondo va male e può provocare anche, so io, perfino maremoti o mutamenti climatici, noi abbiamo la nostra parte di responsabilità e agire di conseguenza quanto si possa fare. Ecco perché un primo passo è attuare il disegno dell'Apocalisse, convinto che si viva in tempi apocalittici, e favorire l'unione delle chiese. Ecco perché fino dal febbraio del 2013 lui si è spogliato dell'ultimo brandello del mantello pontificale, che nel 280 l'imperatore Graziano, rinunziando al titolo di Pontifex Maximus, cioè di capo di tutte le corporazioni religiose dell'impero, l'imperatore Graziano si spogliò di questo mantello di Pontifex Maximus e lo regalò al vescovo di Roma, e il vescovo di Roma l'ha portato fino a tempi recentissimi, mutandolo progressivamente. Era rimasto l'ultimo segno di quel mantello, in fondo un mantello che ha 1700 anni, quindi un pochino ha il diritto di essere un po' invecchiato, era la mozzetta rossa, il colore del manto imperiale che i papi portavano insieme con l'anello d'oro, e lui ha eliminato questi due segni, residui segni imperiali, che sono i segni esteriori del primato di Pietro, del primato del vescovo di Roma sulla Chiesa mondiale, non in termini di autorità, l'autorità è un fatto morale, quella rimane, ma in termini di potere, perché sa benissimo che quei due simboli in realtà erano quello che esteriormente si vede della difficoltà maggiore che osta all'unione con altre chiese, a cominciare da quella ortodossa. E quindi l'incontro di Cuba, tanto per tornare al punto di partenza, serve proprio a questo, serve a avviare un discorso che finalmente si sta avviando su un cammino concreto, perché è un po' come la richiesta di scuse che il Papa Giovanni Paolo II fece all'umanità per le colpe della Chiesa, che non era affatto un'ammissione di inferiorità o di colpa o un'eccessiva umiltà o un atto di debolezza, è una sfida. Io ho fatto il mio, adesso voi fate il vostro, adesso che la Chiesa anglicana ci chieda, ci dia conto dei massacri in Irlanda, che la Chiesa luterana ci dia conto del massacro della guerra dei contadini nel 1523, e magari che le chiese calviniste d'Olanda ci diano conto dei delitti commessi dal colonialismo olandese, uno dei più piccoli e dei più spietati, il genocidio intero dei tasmaniani, per esempio, che sono stati sostituiti da colonie europee, che sono stati massacrati totalmente fra il 6 e il 700, che emergano tutte queste cose, che l'Islam turco ci dia conto di quello che è stato fatto contro gli armeni. Ecco, questo era lo spirito di Papa Giovanni Paolo II. Fu risposto sì, ma non è stato chiaro su Giordano Bruno, sì, ma non ha detto tutto su Galileo, sì, ma sulle crociate poteva andare a fondo, sì, ma dell'Inquisizione ha parlato o non ha parlato, però nessuno si mosse. Nessuno osò dire: bene, raccolgo la sfida, anch'io ho i miei panni sporchi e ho deciso di non lavarli più in famiglia, ma di esporli. Questo non fu fatto. Francesco sta tornando alla carica su questa stessa linea, in una maniera ancora più concreta, sta offrendo, per il momento insomma, la Chiesa russa sembra aver apprezzato la mossa, sta offrendo un ritorno all'unità dei cristiani, cioè a qualche cosa che nel caso dei russo-sovieti, della Chiesa bizantina, si è rotta mille anni fa, nel 1054, e che adesso si potrebbe ristrutturare e potrebbe essere un fatto epocale, anche perché fra la Chiesa latina e la Chiesa greca o la Chiesa russa non ci sono grandi differenze culturali e liturgiche, sì, intrinseche e teologiche, no. Nei confronti del mondo protestante il discorso è un po' diverso. Il celibato dei preti, come sapete, si supera tranquillamente, non c'è nulla di dogmatico e non c'è nulla di teologico, è una misura disciplinare adottata nell'XI secolo dalla Chiesa cattolica. Si può riorganizzarla, si può tornare indietro, si può rivederla, gli ortodossi possono fare il loro, come sapete nelle chiese ortodosse i preti si sposano, ma se si sposano non diventano mai vescovi, perché i vescovi, le chiese ortodosse, le prendono unicamente dai monasteri. Probabilmente, ecco, qualche piccolo aggiustamento si potrebbe arrivare a una reciproca intesa su questa faccenda del celibato e del rapporto disciplinare fra coniugati e non quando si tratta dell'episcopato. Per i protestanti il discorso è un po' più diverso, c'è di mezzo il sacerdozio femminile, che è un grosso problema. Su questo la Chiesa cattolica, le chiese ortodosse, le chiese arabe orientali, la chiesa armena non sembrano per il momento favorevoli. D'altra parte al sacerdozio protestante o anglicano o episcopaliano, in America gli episcopaliani, che sono degli anglicani, anche loro hanno acceduto al sacerdozio, però nello stesso tempo da parte dei cattolici si è aperto a un diaconato più ampio per le donne, quindi insomma gli elementi di intesa ci possono essere. È un cammino lungo che porta, tanto per cominciare, all'unità dei cristiani e poi potrebbe portare altre forme d'unità, perché l'unità dei cristiani, contrariamente a quello che ha scritto qualche giornale, non è affatto un'unità in funzione antimusulmana. Quello che si è detto sul fatto che Francesco e Kirill hanno parlato della Chiesa perseguitata dai fondamentalisti musulmani oggi non è affatto una dichiarazione antimusulmana. L'università di Al-Azhar è perfettamente d'accordo con Francesco e con Kirill che nella persecuzione dei cristiani non c'è assolutamente nulla di islamico, ma è un risultato di una indebita elaborazione ideologica. Ecco, permettiamo allora al professor Carlini di bere un goccio d'acqua direi che, in attesa di scoprire chi ha scritto la seconda enciclica di Papa Bergoglio in italiano, perché mi risulta che la sintassi sia rispettata in modo accettabile. Me l'hanno rivisto. Sì, vabbè, poi magari c'è. In attesa che riprenda la caccia all'estensore o gli estensori della prima enciclica in italiano e della seconda di questo Papa, direi che d'ora in poi, se leggeremo delle interviste al professor Carlini, anche firmate da giornalisti di vaglia, potremo concludere facilmente che il merito è esclusivamente del professore. Una vecchia battuta della mia professione recita così: un'intervista è un articolo rubato, cioè è quasi sempre merito esclusivo della persona che viene intervistata. Mi sembra che il caso Carlini sia assolutamente eloquente e quanto a questo. Dell'enciclica abbiamo detto, difficile peraltro in pochi minuti interloquire col professore, ciascuno di voi lo farebbe meglio di me e non sono una persona modesta, se no farei il medico, che ne so, il macellaio, invece faccio un lavoro in cui l'ego c'entra sempre, spero poco, e grazie anche alla presenza di alcuni di voi, fermo restando che siete tutti benvenuti allo stesso modo, ovviamente. Ti chiederei, Franco, un'ultima cosa, scorrendo anche l'orologio e con la preghiera di non fare le 8, sennò, una preghiera, come dire, tecnica, non certo per l'uditorio, ma tecnica, se no niente Wiener Schnitzel, tanto per essere chiari. Tanto ci cacciano. Quindi c'è, cioè, il messaggio, credo sia arrivato sul piano gastronomico. Ti chiederei due veloci battute su due temi enormi che peraltro nel tuo straordinario libro sono ricorrenti. Primo tema, i profughi, che in questa regione stanno avendo una attenzione speciale, con molta gente che lavora in modo molto importante. A pochi chilometri da qui ci sono due confini con l'Austria che stanno facendo la fine, che sappiamo da alcuni giorni a questa parte. Il Landeshauptmann ha detto una cosa di realpolitik, ma forse un po' debole, quando ha detto: beh, speriamo che sia una misura provvisoria quella dell'Austria. Capisco che non siamo più ai tempi di Brandt, ma forse potevamo avere da presidente della provincia autonoma di Bolzano una voce un po' più forte. Meglio questa che sbagliare le poesie di Borges in Argentina da parte di un premier a caso, comunque, no? Potremmo aggiungere. Allora ti chiedo la cortesia di darci due flash, uno sull'approccio di Papa Bergoglio verso il fenomeno profughi, e l'altro quello che definiamo con molta approssimazione il dialogo interreligioso. Noi conosciamo il professor Cardini anche come un esperto e un scienziato della storia per quanto riguarda l'Islam, ad esempio. Quindi ti prego di darci due flash su questa cosa, altrimenti niente di Schnitzel. Spero che questa minaccia esplicita e pubblica funzioni. No, ma prego. Molto rapidamente, perché queste cose sono estremamente lunghe e complesse. Cerco di sintetizzare quello che ho cercato di dire invece un pochino più diffusamente. Anzitutto, guida per la lettura, perché questa è un'enciclica che non è stata letta quasi a nessuno. Infatti quasi tutti hanno detto è una grande oppure è una cattiva enciclica ecologica. È vero, il Papa per primo, forse mettendoci fuori strada, lo so, questo può darsi abbia anche sbagliato sul piano della vendita del suo prodotto, e il Papa insiste su questo fatto dell'ecologia integrale, eccetera. Però l'ecologia integrale va intesa nel contesto di questa enciclica, e non è affatto un'enciclica ecologica. Mi dispiace, ma il Papa non parla della difesa delle foche monache. Io non capisco perché qualcuno ce l'ha così tanto la foca monaca, è un simpatico mammifero, però tutti si sono scandalizzati dicendo: beh, i cristiani vengono ammazzati, e questo parla delle foche monache. No, non parla affatto in questo modo dell'ecologia. Lui dice che il disastro ecologico è una parte del disastro sociale del mondo, e il disastro sociale del mondo è una conseguenza del disastro morale. Una parte del mondo tende a accumulare ricchezze, a modificare l'equilibrio del mondo anche senza un'immediata necessità di riutilizzare certi beni, eccetera, e tutto questo va a danneggiare l'ambiente e va a danneggiare quindi due volte i meno fortunati, i più fragili. Li danneggia direttamente perché contribuisce al loro impoverimento, e li danneggia poi anche indirettamente perché grava sulla loro salute. Perché contribuisce al loro impoverimento? È molto semplice, vi faccio un esempio. Nella grande lago Vittoria ormai la pesca è morta, ed è morta anche l'agricoltura dei dintorni. Perché? perché un gruppo di multinazionali franco-russo-belghe hanno deciso di immettere nel Lago Vittoria il persico reale, che è quello che troviamo in tutti i supermarket. Qual è stato il risultato? Il persico reale è un predatore, si è mangiato tutta la fauna del Lago Vittoria e è restato solo. Nel frattempo, mangiando tutta la fauna per la catena alimentare, ha causato anche gravi danni alla flora circostante, evidentemente. Non solo, ma intorno al Lago Vittoria c'era un'economia fiorentissima, ambiente subtropicale, quindi si può morire di tutto, di qualunque tipo di malattia, ma non di fame e di sete, quello è impossibile nel mondo subtropicale. Ci sono riusciti, perché intanto hanno desertificato l'area, per il semplice fatto che la gente che faceva il pescatore o l'agricoltore sulle rive del lago, tenendo quel tanto che gli permetteva la sovranità alimentare, le galline, le uova, gli ortaggi, eccetera, adesso non c'è più, è sparita, ed è sparita semplicemente perché le industrie imposte dalle multinazionali, con l'appoggio e il permesso naturalmente dei governi locali che l'hanno permesso, non hanno lavoro per tutti. Laddove prima potevano campare migliaia di contadini e di pescatori, concretamente adesso c'è lavoro per poche centinaia di persone, le quali lavorano esclusivamente alla raccolta, alla pesca e alla prima lavorazione del pesce, quindi tolgono i filetti, buttano via le spine e le teste che servono per l'alimentazione locale o come concime, eccetera. Il paesaggio è cambiato, è diventato desolato, perché questi che erano agricoltori e pescatori, che avevano una loro cultura, sono ridotti a operai di un'industria alimentare e naturalmente producono solo questo. Ma evidentemente Gesù dice non si vive di solo pane, non si vive nemmeno soltanto di solo pesce o di sola spina di pesce. Questi hanno bisogno di un sacco di cose. Naturalmente chi gliele dà? Gliele danno le lobbies multinazionali, loro datrici di lavoro, che li organizzano anche i supermarket, dove questi possono trovare il pane, il sapone, il detersivo, i medicinali, e così i datori di lavoro si riprendono una parte del poco salario che danno a questi qui. E gli altri cosa fanno? E gli altri bisogna essere vadano. E dove vanno? Beh, insomma, scappano. Poi quando arrivano sulle coste nordafricane qualcuno li piglia e a carissimo prezzo li porta in Sicilia, quelli che riescono ad arrivarci. Questa emigrazione si potrebbe fermare a livello di Nazioni Unite se si riuscisse a creare delle leggi che ponessero un limite all'arricchimento indiscriminato delle multinazionali e stabilissero semplicemente che una parte del valore che le multinazionali ottengono, io ho fatto l'esempio del pesce persico, potevo fare l'esempio del petrolio della Tanzania, che era meglio, del coltan, cioè di quella cosa che serve per i microprocessori, di cui è ricchissima la Nigeria. Di tutte queste ricchezze la gente non si avvantaggia quasi per niente. Boko Haram, la frazione nigeriana del califfato, fa dei documenti, che sono documenti che si trovano anche online, e sono molto interessanti da leggere, perché la prima parte la potete buttare via. Nome di Allah, che vente e misericordioso, sappiate, vi ammazzeremo tutti se non vi convertite all'Islam. Ora andremo a Roma, conquisteremo Roma, ammazzeremo il Papa, metteremo la bandiera nera sulla cupola di Michelangelo e altre fesserie. Dopodiché comincia la cosa interessante, ma a quel punto uno non è abbastanza e non legge più. E la cosa interessante è la declinazione delle ragioni per cui Boko Haram è quello che è, che io vi spiego in sintesi, con un pseudo discorso diretto. Voi sapete, cari occidentali, che noi viviamo in una delle terre più ricche del mondo. Il nostro sottosuolo, il nostro suolo è fertilissimo, ma pensiamo al sottosuolo che è più redditizio: oro, diamanti, petrolio, coltan e via discorrendo. Voi sapete anche che noi siamo fra i popoli più poveri della terra. E tutto questo è una contraddizione per la Carta delle Nazioni Unite, perché una terra appartiene al popolo che l'abita. E perché noi siamo così poveri se il sottosuolo è così ricco? Perché le vostre multinazionali, in combutta con i nostri governi tirannici e corrotti, ci portano via queste ricchezze. Non ci permettono di parteciparvi, se non all'infima parte di noi che serve al loro processo industriale. Pochissimo, pochissimo, perché insomma questi processi industriali, estrattivi, minerari, si mandano avanti con relative poche persone. E quegli altri se ne vadano. E allora, conclude Boko Haram, noi abbiamo scoperto una dura verità. Ci sono solo due modi perché voi ci accorgiate che noi esistiamo. Uno è venire da voi, più o meno col cappello in mano, mettersi in fila e aspettare che voi ci diate un lavoro, una baracca, qualcosa per sopravvivere a casa vostra, perché a casa nostra è diventato impossibile sopravvivere. Questa è la soluzione A. La soluzione B è che noi vi ammazziamo, perché se vi ammazziamo voi vi accorgete che esistiamo. Soluzione? Ma evidentemente nei tempi brevi non c'è, ma bisognerebbe cominciare a cercare di capire, è questo che dice il Papa, perché se si mette insieme il discorso dirompente del famoso 7 luglio, mi pare fosse il 7 o il 9, 2013, l'accoglienza a Lampedusa, noi siamo la stirpe di Caino perché vi ammazziamo, cioè, quel discorso che ha dato noi a tanta gente, anche a tanti cattolici. Se lo mettiamo insieme con l'enciclica Laudato Si, dove si fa nome e cognomi delle multinazionali che fanno queste belle cose, e si rimanda ai documenti vescovili che da anni denunziano queste cose, ci accorgiamo che il discorso è un discorso di serena proposta di mutamento di alcuni equilibri, che in fondo si potrebbero razionalmente fare. Come si reagisce all'invasione? Senza lasciarsi prendere dalla paura, oddio adesso ci invadono, questi sono dei barbari invasori travestiti da migranti, questi ci vogliono convertire tutti, piano, calma, insomma, noi siamo 500 milioni di abitanti, non siamo così deboli come sembriamo. Noi diciamo di avere una cultura debole rispetto alla loro, che è una cultura coesa, è vero, ma è la debolezza di quelli che hanno rinunziato ad avere un certo tipo di cultura. A noi le culture comunitarie non ci interessano, noi abbiamo sviluppato una cultura individualista che ci ha fatto quelli che siamo, certo, a spese di tante cose. Quelli credono in Dio e noi non ci crediamo più, quelli tendono a vivere insieme e a trovarsi e ad aiutarsi, e noi abbiamo sviluppato una cultura non solo dell'individualismo ma anche dell'egoismo. È evidente che davanti alla loro forza di coesione noi ci troviamo culturalmente svuotati, ma non è meno evidente che a livello socio-economico il coltello alla parte del manico ce l'abbiamo ancora noi. Quando si tratta di difendere i nostri interessi siamo bravi e siamo anche spietati. Tutti siamo d'accordo sul fatto che è vergognoso uccidere nel nome di Dio, ma bisognerebbe chiedersi anche se per caso uccidere il nome del petrolio sia più chic o sia più morale, perché probabilmente è meno redditizio forse uccidere il nome di Dio che non il nome del petrolio, ma mi pare che sul piano della moralità siano due ragioni insufficienti per ammazzare il prossimo, ammesso, forse anche concesso, non lo so, che ci siano delle buone ragioni per ammazzare il prossimo. Dio non è una buona ragione per ammazzare il prossimo, e su questo siamo d'accordo, e sbagliano i fondamentalisti. Petrolio è una buona ragione per ammazzare il prossimo? A livello individuale probabilmente siamo tutti dell'avviso che non lo sia, ma a livello della nostra politica invece siamo tutti d'accordo che tutto sommato sì, il gioco vale la candela, ed è quello che facciamo da decenni, per non dire da secoli. Ecco, il Papa in fondo ci dice questo: anzitutto c'è spazio per ridisciplinare i nostri rapporti con il resto del mondo. Basterebbe che fare una cosa che in fondo molti partiti anche di destra dicono, anzi soprattutto partiti di destra, perché questi arrivano così in massa dall'Africa? scappano dalle dittature, scappano dalle guerre, questi scappano anche dalla fame, scappano anche dalla mancanza di lavoro, perché il continente africano si è modificato, e allora permettiamo di svilupparsi al loro paese. Ma per permettergli di svilupparsi al loro paese bisognerebbe che i nostri operatori economici lì si ponessero il problema che una parte dei loro proventi deve andare a finire a migliorare la vita sul posto, a creare posti di lavoro, non a sottrarre posti di lavoro, creare forme quindi di sfruttamento del territorio africano che siano compatibili con lo sviluppo armonico quanto è possibile del mondo africano stesso, il che risponderebbe anche a un naturale problema di carattere demografico, perché noi sappiamo bene che sono i popoli poveri che si riproducono rapidamente. Tu permettete, un nigeriano oggi in media ha 5 o 6 figli, se gli date un po' di lavoro, se gli date un minimo di prospettiva, che questi figli non cresceranno nella miseria, nell'ignoranza, nella sporcizia, morendo magari di malattie contagiose o infettive nei primi 5 anni di esistenza, ma se gli date la prospettiva di poterli mandare, non dico all'università, ma a scuola, a trovarsi un lavoro, immediatamente si mettono in atto quel tipo di limitazioni alle nascite che gli esseri umani conoscono dalla preistoria. C'è bisogno di stare a arrampicarsi sugli specchi, ci sono infiniti modi di limitazione delle nascite, per cui noi sappiamo che appena si alza il tenore economico di una società, immediatamente si abbassa lo sviluppo demografico. È quella cosa che Israele non ha il coraggio di provare nei confronti dei palestinesi, perché se solo accettassero di permettere ai palestinesi di svilupparsi economicamente, mentre invece col sistema di oggi hanno ucciso anche quelle poche attività artigianali e turistiche che erano lo specifico dell'attività economica palestinese. E allora a questo punto certo i palestinesi si moltiplicano come conigli, e certo che gli israeliani hanno paura dei palestinesi, hanno paura che diventino più di loro. E il risultato poi di tutte queste cose lo sapete. Quindi coniugando il discorso di Lampedusa con la enciclica, noi abbiamo un risultato. Bisogna intervenire evidentemente, per intervenire c'è un fatto urgente. Questi che arrivano evidentemente non li possiamo ammazzare, evidentemente non li possiamo in qualche modo respingere, è un atto di miopia o prima che d'egoismo, perché se li respingiamo noi se li deve prendere qualcun altro, a meno che noi non accettiamo una logica diversa. Se accettiamo una logica diversa, io mi chiedo perché già a partire da domattina non mettiamo nelle piazze d'Europa dei tavolinetti a cui i buoni cittadini europei possono andare a mettere la loro firma e magari lasciare 10 euro, 20 euro, 30 euro ciascuno, perché in tutte le città d'Europa sia elevato, se non proprio un monumento, quantomeno un busto ad Adolf Hitler, perché Adolf Hitler la strada l'aveva indicata, la strada della supremazia delle razze migliori, anche a costo di fare questa cosa brutta, spiacevole, che consiste nell'ammazzare le inferiori. E in fondo i risultati sono questi. Noi chiaramente non possiamo buttare a mare questa gente, e allora bisogna naturalmente colpire il male alla radice, bisogna fare quello che si fa con un organismo ammalato. Le malattie in corso vanno curate, non c'è niente da fare, e quindi non c'è muri che tengano da questo punto di vista, però bisogna prevenire gli arrivi futuri. E come si fa a prevenire gli arrivi futuri? Si bombardano le coste africane, come ha proposto qualche idiota di deputato italiano? Evidentemente no, questo non si può fare. Noi abbiamo il dovere di restare esseri civili, se no è troppo facile essere civili finché ci fa comodo o finché è agevole, e poi ridiventare immediatamente nazisti quando sia necessario. No, allora bisogna scegliere. Noi abbiamo scelto per la via umanitaria. La via umanitaria non è la via del suicidio a favore degli altri. E allora noi questo questo esodo bisogna frenarlo, e il modo fondamentale per frenare l'esodo che esiste è aiutare quella gente a svilupparsi in loco, e si può fare, e noi abbiamo i mezzi. L'Unione, l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha i mezzi, ha il know-how per fare tutto questo. Non lo fa evidentemente perché? Per la ragione che spiegava bene Karl Marx nell'Ottocento, solo che la spiegava troppo bene, ai suoi tempi non era vera, ma oggi è vera. I politici sono diventati dei comitati d'affari dei grandi azionisti, dei grandi capitalisti. Al Parlamento europeo ci sono i chief executive officers che sono stipendiati dal popolo europeo, cioè da noi, per corrompere i deputati sotto forma di informazione ai singoli deputati delle qualità di un certo prodotto scientifico, di un certo prodotto tecnico, di un certo prodotto commerciale, per strappare voti favorevoli all'introduzione di un certo brevetto, eccetera. Tutto questo è stato istituzionalizzato. Non ci sono più uffici. Guardate che è una cosa di assoluto diabolico, diabolica demenzialità. Non ci sono uffici nel Parlamento europeo che ci costano l'occhio della testa, che informano i deputati sulle qualità di certi prodotti quando si tratta di organizzare la legislazione europea per la circolazione dei prodotti. Non ci sono uffici di tecnici, di scienziati che spiegano ai deputati, che non saranno onniscienti, quali sono le caratteristiche, poi li fanno votare in piena cognizione di causa. No, si demanda alle singole imprese l'onere di pagare in parte, perché in parte li paga il Parlamento europeo, dei propagandisti che vanno a persuadere i singoli deputati europei, in pratica li vanno a corrompere, che poi li promettono e anche gli danno regali o bustarelle varie per comprare i loro voti. Ma quando siamo a questo livello non c'è veramente più speranza. Ma a questo livello ci siamo noi coi deputati europei che mandiamo a Strasburgo, che mandiamo a Bruxelles, e si dovrebbe cominciare a parlarne di questa cosa insieme ai deputati europei e sentire cosa hanno da dire e chiedergli di impegnarsi che questa cosa cambia. Finché questa cosa non cambierà, evidentemente non cambieranno le cose. Cosa c'è alla base di tutto questo? Il Papa dice che c'è la cultura dell'indifferenza. Ma il Papa è un sacerdote, è giusto che dica questo. Io che faccio l'insegnante dico semplicemente c'è una disinformazione, cioè una ignoranza diffusa e una incapacità di organizzare le nostre cognizioni circa la visione generale del mondo. Noi conosciamo i nostri alberi, a cominciare dagli alberelli della nostra condizione, la nostra professione, le situazioni della nostra famiglia, il nostro paese, non riusciamo a vedere la foresta dei problemi generali. E se non riusciamo a vedere questa foresta, non riusciremo mai a far nulla, perché noi siamo chiamati a decidere. Noi europei siamo una grande forza mondiale e siamo anche una grande democrazia. Però se siamo una grande democrazia, le persone che non sanno nulla, che non sanno dove andare, e allora tutto quello che ci rimediamo, che ci meritiamo, è una tirannia, con la speranza che la tirannia sia illuminata. E concludiamo qui allora questo incontro con il professor Franco Cardini, autore di Un uomo di nome Francesco, e come io ho imparato molte cose e credo che voi possiate concordare pienamente. Io ringrazio molto la dottoressa Trevisan e la sua squadra, che ha fatto anche in questo caso un lavoro egregio e continua a farlo, e davvero è doveroso che Franco ed io la ringraziamo. Ringrazio moltissimo voi tutti, siete stati molto cortesi e pazienti, me lo suggerisce il professore, con chi vi ha parlato questa sera. E vi prego infine di salutare il professor Cardini con un applauso. Grazie a tutti.